nessuno? Non c'è nessuno qua. Attenzione, Antonello. Antonello, ci sei? Se ci sei, batti due colpi. Antonello, ci sei? Antonello, ci sei? Antonello, ci sei? Avanti, chi è? Antonello, ci sei? Avanti, chi è? Antonello, ci sei? Antonello, ci sei? Chi c'è? Chi c'è? Avanti, chi è? Avanti, chi è? Chi è in questo canale? Attenzione, attenzione. Ebbene, è uscito. Ah, è uscito da giubilare, siccome c'era lui poc'anzi. Era un uomo da già venti di chiaccia. Ciao, Torre. Eia, eia. La situazione ve la le uccido già mese di sempre. Ah, e infatti io le cose ma intendia semplicemente Antonello. Antonello, chi sei? Ogni tanto si mezz'ora vera è sempre Antonello, Antonello. E io non potevo entrare, l'ho sentito chiamarti varie volte, però non potevo entrare io, capito? E infatti, era semplicemente, capito? Ah, si vede che adesso ha chiuso. Eia, eia. Va bene, cioè, ci sentiamo dopo, eventualmente, dai, che sto terminando la questione, ok? Marino. Ciao Bacchi. Ciao, oh, grazie, buonasera. E beh, non c'è un asinello tutta la sera. Ciao, vuoi dire tutta la sera? Io adesso ho acceso. Oh, è acceso la stasera, ma non entra due più. Anche nel dimito lo prendo, grazie. Lo prendo nel dimito, ma chi su è? Mi sembra sia Luca anche. Buonasera Luca. Non c'è grazia, Luca era. No, non era Luca, un altro. No, no, non si fa avanti. Oh, signor Bacchisio. Ehi, Tore, buonasera. Sì, buonasera, ben sentito, cavolo. Ciao, grazia. Ciao, Tore, e allora, allora? Andate di là nei frigiuri. Ehi, mi villaggio, ma non ne mangio altro. Che c'è troppo zucchero. E allora, signor Bacchi? E allora, me? Ho acceso, stavo chiamando al Marino, mi ha risposto Graziano. E dunque, quattro chiacchiere con Graziano. No, Marino, non l'ho sentito, l'ho visto stamattina e busta. Stasera non l'ho sentito, non sapeva se è entrata. No, stamattina l'ho sentito anch'io. L'ho visto, dai, l'ho sentito, visto. Stamattina. Ma ce la scendeva, boh. E forse c'è ospiti. Poi oggi è domenica, sempre qualche uno si avvicina, va. Vabbè, se lo so, cosa mi racconti? E cosa vuoi che ti racconti, ah? Boh. Vento, ne fa, le tira venta con le parti. Certo, è freddo burro, eh. Vedi che divento freddo, di freddo di maestrale. E il maestro lo si mette in funzione. Capito? E così è. E beh, grazie, e tu cosa hai combinato oggi? Nulla. Ti ho bisogno di tutta la radica attaccata alla stufa. Oh, in casa è stato mia moglie, cosa vuoi? Niente. Cosa vuoi che fa? Oggi è domenica. Ho aiutato mia moglie a cucinare. Abbiamo fatto arrosto, pancetta, bistecche. I uovo cosa si chiamano, gli spizzermanni, i peperoni, il pane, con l'olio, il peperoncino, fatta la graviglia, quel pane a fette. E niente, poi ho fatto i gnocchetti sardi con il sugo a ragù, mori, infatti non ceno. Sì, ma veloce, ma lo metto giù veramente a fare un fuoco per il barbecue, disgraziato. Lo si ne lasciava di nulla, si portava tutto. No, che da me c'è il muretto, no, lo tiene riparato. E appena appena più basso del muretto, infatti l'ho messo più sotto la finestra, nel terrazzo. No, non gli ha fatto niente il pezzo. Solo quando ha giù finito l'ho spento con la poppa perché se magari un colpo di vento non gli sia venuta. E pure a poco, alla gabbicchia. Capita, anche se ci ho messo un paio di mattoni, adesso è pericoloso, specialmente quando c'è vento. Niente, l'ho spento, un poco fa l'ho stappato, già era asciutto. Col sacchetto di nylon l'ho messo una parte. E cosa fai? Veramente, è un bel fuga, vai, viene ancora di lì. E infatti, no, internazionale non si può riuscire. Non si può riuscire a far nulla. Perché aveva troppo vento, ma vento però, si buscava l'ombo. Invece da dove è più caldo, dove è una fusolare, la Ianna che viene a pretella e non vi passa vento. Così è to. Infatti, la già ruvura. Era da su fuori, ero da su. Lui è a Campolibaro, è proprio pulito pulito, non arrivi. Dunque, non ci arrivava a prenderlo, capito? Oh, il vento in pieno, non lo prende perché rimane appena più basso. E di quei barbecue piccoli, no? E di chi ti mani mani, capito? E niente, a ci mangiare dove? Infatti da tutti mi danno il vostro un tè leggero a chi ha già mangiato un bel. E infatti così, mangiare bene e andare a spasso, quando uno scalzo bene, grazie a più la panza piena, qualsiasi cosa andava bene. E infatti. Per cambiare, e poi era buono perché c'era proprio il sapore, come l'hai cucinato col carbone, capiterà. È più buono quando fai arrosto, altro che più per gruppi. I ragazzi, anche se li fai nella piastra, non sono mai come fatti nella graviglia con un buco. C'hanno tutto l'altro sapore, buoni, veramente buoni. Anche le bistecche, buoni, e noi da lì ne manca, ci rimaniamo belli, belle morbidi. Infatti così. No, l'altro giorno ho fatto le triglie arrosto, grazie. Fatte nelle cose, nella graviglia, non nella piastra, nella graviglia. È buonissime. Anche mia moglie le ha fatte da poco, anche quell'altro pezzo, lo vanno mi ha messo caffè sfida. Che buono, ma tu, non ricordo le pezzeria, ne aveva preso 4. E ce l'ha fatta tutte e 4, buoni anche qui. E più mi sono rimasto un poco di gotti, la giudizi da rimane, ma non ho mangiato, domani si ridato. A domani non si viene qui. No, io lo piglio da questo che passa in garage, qua se andiamo andando passa. Roba si va dietro, si picca e se la vende in giro così. E infatti ancora mi muovo in di sera, nega, ma è perché vecchi. Oggi non la giovisco, anche oggi domenica, forse sono più andato, ho fare male male, boh, non lo so. Avanti Tom. Sì, da voi. Che non potete fare, io invece sulla griglia. Sì, tu la vuoi fare una testa. Io buongiorno. Non si può fare. Non si può fare un buongiorno a chi ne viene all'altro. Se la stiamo arrivando con i abiti, non si può fare. Ehi, a Roma mi cai, cosa hai fatto? Chi tu in Roma? Chi ti faceva un fuoco sotto, adesso stavo un fuoco sopra, e si lamentava, chita. A poi si è girato un po' col cazzo, lì su di sopra, poi la macchina la leva e la lampada. E gli ho detto, il fumo sale e l'acqua scende. E ci siamo parlati tutti e due. Andate. A me non mi piace così, a fare così, una giocata di vedere con gli altri. Sì, in carriera mi tiene la mia andrà a fare un po'. Se tu passi su Vennari, non lo sabato, e la mia via di casa in fondo a tutti, c'è un circolo per no. E fate una rossa pure la mia stessa, fai il barbecue e fate una rossa di chimica. Non fa, se c'è il piano di più sotto non fa, perché tu no. Venga sa e non andare, invece dopo lo faccio io e tu sapessi dunque non va andare in terra, si sparge nell'aria direttamente, sopra un venizzame. Grazie a te, grazie anche, non vuoi fare. Se non ne approfitti, che appena i nomi si sono mabbiano, mi ha dato l'altavalusino e non va via, e da poi priava con chi sta di sopra. Gli va via, il piano sopra la dieta, si la fumicava tutta la casa e tutta la roba. Grazie a Bumbo, e io venni zimino. Però adesso se lo fa, scende giù in strada, la usano buttare, si piazza tutta e sul gozzino. E fatti bene, vuol dire che gli piace così, e anda via, anda. Niente, bambù. Va domani, mi, di pomeriggio. Già l'ha detto. Una di io, a me, cucinata, l'ha pareggiato, dottore. So, sarò bostico. E se ho questa maglia ai libri, mi assisti che stai essere matta. Si può dire che non va via riguardo a nessuno, chi so. Pensa un poco, non ne ha fatti a nulla di nessuno. Oh, e ogni tanto gli ha rubato di Matteo, vicino alla farmacia. E tu mi ha dato per il mio bucarone, ma i figli mi vanno in Brasile, mano, di Giambulana. Poi l'avanzata 10 metri, è lunga, di me è sbucata da niente. Oh, mi piace il bucarone, che non l'hai mai visto. Ehi, mi divusi. Andate là, mamma mi giacciamenti. Ciao Bacchi, ben sentito, ci sentiamo domani se a tutto andare, ok. Ciao Graziano, alle prossime, ok. Ehi, ciao Tore, a domani se coincide, Bacchi, io vai. Ciao Tore, buona serata, grazie delle quattro chiacchiere, saluta la signora se coincide, bye bye. E anche io un paio di giri, grazie, e arrivi a trovare l'endero, avanti. Ehi, così è, anche se c'era vento, ci ha funzionato, va. Un po' d'aria fredda, vera, va, tappato vento, non si sentiva, la cuffia, e già si doveva. Devo anche asciutto un poco, ma capio. Anda, vedrà, grazie. Ti saluto, mi faccio in corretica che ci piglia i miei zini, sono lotto, ho così comunque, preparato cosa l'altra, sono lotto. Benissimo, grazie ancora, grazie delle quattro chiacchiere, saluto la signora e buona cena, buon tutto, a domani se coincide. Ciao ciao Graziano, buonanotte. Ciao Bacchi, ricambiato il tutto al 100, a domani se coincide. Ciao! Ciao, ciao, Graziano, ciao.